want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti da JJ Telesforo. Siete in contatto con la prova del suono, il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba. Ha tolto la maglietta della nazionale italiana, quella di Baggio, autografata di non so quale anno, credo di Italia 90? No, era USA 94. Ah, USA 94, perdonami. Hai tolto la maglietta della nazionale, che verrà riproposta al prossimo appuntamento con la nostra squadra. Non commentiamo la partita di ieri, perché qui su Radio 24 gli esperti hanno già fatto il loro lavoro, noi parliamo di musica. Però noto con piacere che indossi invece una bella maglietta. Dove l'hai comprata? A Londra? Sì, a Londra, in un negozio a Camden Town. Esatto. Ho indovinato. E beh, perché lì si fanno questi acquisti, una maglietta musicale con la bellissima immagine, con il profilo di un grandissimo artista che presto sbarcherà in Italia, e vi sto parlando di Stevie Wonder. Tu sei un fan di Stevie Wonder? Sì, esatto, mi piace tantissimo, soprattutto cioè, il suo senso del ritmo, cioè proprio esprime quasi anche la sua pelle nera nella sua musica, no? E viene fuori esattamente tutto il talento di Stevie Wonder, ormai da 40 anni a questa parte, un eccellente compositore, bravissimo pianista. Come cantante neanche vogliamo parlarne, e poi anche con l'armonica a bocca ha dimostrato in vari momenti che è sempre il numero uno, insieme al grande Toots Thielemann, anche se poi con l'armonica a bocca stanno venendo fuori dei grandissimi musicisti da un po' di anni, e ce ne sono alcuni bravissimi anche in Italia, e credo che ne parleremo prestissimo. Ma veniamo a Stevie Wonder. Allora, Stevie Wonder sta per sbarcare in Italia con un concerto secco, unica data. In verità nel suo calendario erano annunciate fino a qualche mese fa due date, due concerti, con una tappa a Umbria Jazz che poi è stata cancellata, e infatti al posto di Stevie Wonder ci sarà un concertone con altre voci importanti, credo Take Six, Al Jarreau e Mario Biondi, giusto? Sì, esatto, corretto. Ma noi parliamo oggi di Stevie Wonder. Domenica 20 luglio dove si esibirà Stevie Wonder? Si esibirà in Piazza Napoleone a Lucca. Piazza Napoleone a Lucca, quindi anche una bellissima location per il Lucca Summer Festival, appuntamento che ha diversi anni di vita, quasi una manifestazione storica che propone sempre nomi di grandissimo rilievo, e credo che in questa occasione particolare, per avere Stevie Wonder che torna in Italia non so dopo quanti anni, io l'ho visto, ma saranno stati i primi anni 80, e non ti nascondo, Francesco, che mi prese proprio un moto di commozione vedere Stevie Wonder sul palco che cantava le sue canzoni, insomma fa venire i brividi, spettacolo eccezionale, e quindi credo che i biglietti lì a Lucca saranno anche un po' salati. Sì, saranno abbastanza cari, perché si parte dai 52 euro più prevendita per il posto in piedi, e si arriva ai 150 più prevendita per la poltronissima numerata. C'è anche un prezzo di mezzo che è sui 100 euro più prevendita. Più prevendita, ma per acquistare i biglietti per Stevie Wonder si può utilizzare internet tranquillamente. C'è un indirizzo particolare? Sì, anche sul sito del festival, summerfestival.com. Ecco, di Lucca, per il Festival di Lucca, attivata la prevendita proprio nelle pagine del loro sito. Allora, diamo il via alla musica utilizzando proprio il talento ripreso dal vivo diversi anni fa di Stevie Wonder con una formidabile band, il brano, un classico del suo repertorio, intitolato I Wish. Viva, viva Stevie Wonder! I I Wish dal vivo, tutta l'energia, la potenza, la vocalità, tutto l'entusiasmo di Stevie Wonder, che come dicevamo arriverà in Italia il 20 luglio per questa data secca, concerto unico per il Lucca Summer Festival, giusto? Sì, esatto. Allora, tanto per celebrare Stevie Wonder, che è un punto di riferimento della black music da decenni oramai, c'è un altro signore che è grande, da grande musicista e da grande appassionato di Stevie Wonder, dal vivo gli ha reso un tributo un po' di anni fa, e vi sto parlando del vocalist bravissimo Frank McComb, che ultimamente ha dedicato un tributo a un'altra voce importante come quella di Donny Hathaway, ma dal vivo molto spesso si lascia andare a composizioni tratte dal repertorio di Stevie Wonder, come questa versione di Superstition con Frank McComb e la sua ottima band in evidenza qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Questo è il Soundcheck di Radio 24, la prova del suono di Radio 24, dove arriva un'altra giovane interprete, una bellissima ragazza nera americana, ma che dagli Stati Uniti, esattamente da una piccola cittadina dell'Illinois, poi prestissimo, giovanissima, si è spostata in Africa per seguire il papà. Sì, il papà della signorina chiamata Somi, questa è la pronuncia esatta, no? Sì, credo di sì. Ecco, Somi, il papà di Somi lavora per l'organizzazione che cura la salute lì in Africa, e quindi la signorina Somi insieme alla sua famiglia ha viaggiato in lungo e in largo apprendendo la legge proprio del groove e del ritmo tipicamente africano che si risente nella sua musica. Hai informazioni valide per completare questa scheda tecnica sulla giovane Somi, che pubblica un album con un'etichetta importante come l'OK per la Sony Music, album intitolato The Lagos Music Salon? Sì, allora Somi è salita, diciamo, alla ribalta nel 2009, quando ha pubblicato il suo primo album, che si chiama Eternal Motive. Da allora, diciamo, grazie anche alla classifica di Billboard, è entrata di diritto, diciamo, nelle classifiche, appunto, della musica, sia per quanto riguarda il jazz che per quanto riguarda la musica etnica. La musica etnica, sì, coniuga quindi la sua passione per la musica jazz con il groove e il ritmo africano, e infatti credo che lei definisca la sua musica come... New African Jazz. New African Jazz. Pensa te, per la bellissima Somi, che allora ascoltiamo qui al Soundcheck con una composizione intitolata Akobi, First Born Son. Al Soundcheck di Radio 24, per la prima volta, Somi. Prepotentemente ci sono molti artisti che ormai da qualche anno a questa parte riescono ad approdare alle multinazionali proponendo un genere che fino a poco tempo fa poteva essere considerato di nicchia, quindi questa commistione fra il folklore, musicalmente parlando, africano, il jazz, la fusion, l'R&B, sta tornando prepotentemente. Un esempio, dopo la bravissima Somi che abbiamo ascoltato dall'album intitolato The Lagos Music Music Salon qui al Soundcheck. Per esempio, un altro esempio è quello di Laura Mvula, che in Inghilterra oggi sta spopolando. Sì, è stata anche nominata per il Grammy Awards, solo che poi non ha vinto, purtroppo. Non ha vinto quello, ma ha preso un bel premio al Mercury Prize in Inghilterra, che è il premio che viene assegnato ai giovani talenti. Quest'anno lo ha vinto James Blake, ma anche Laura Mvula è andata benissimo. E come spesso succede, questi artisti si autoproducono il loro materiale, approdano a una piccola etichetta indipendente che poi svolge il suo lavoro con le pubbliche relazioni per arrivare a chiudere un contratto discografico più importante con una multinazionale. Quello che è successo anche a Laura Mvula, che oggi è un artista di spicco pur appartenendo a un'etichetta indipendente di una major come la Sony. Laura Mvula noi la vogliamo vedere dal vivo e la vogliamo vedere in Italia, e so che verrà in Italia, mio caro Francesco Tromba. Dove? A Locorotondo. A Locorotondo. Sai dov'è Locorotondo? Sinceramente no. Ma lo so che non lo sai, lo so che non lo sai, e credo che tu abbia anche bevuto dell'ottimo vino di Locorotondo senza sapere che questa località si trova in Puglia, e quindi gli amici pugliesi, ma anche i sostenitori di Laura Mvula, avranno la possibilità il 26 di luglio a Locorotondo di apprezzare le qualità di questa bellissima ragazza talentuosa. E il 26 di luglio devo andare a vedere sul calendario, perché non so se sono libero, perché la stagione dei concerti sta iniziando anche per me, e quindi mi dovrò muovere fino alla fine dell'estate, e credo che a luglio avrò qualche problema, proprio perché dobbiamo fare il programma il sabato e la domenica, e poi devo anche muovermi, non so come faremo. Vabbè, ma tanto non devi portarti appresso nessuno strumento, no? Ma che dici? Intanto mi devo portare un sacco di cose, un po' di percussioni, mi devo portare gli spartiti, mi devo portare i testi, e poi molto spesso, ti devo dire la verità, i miei musicisti preferiscono i miei strumenti, quindi molte volte carico in macchina addirittura la mia batteria, oppure devo tirare fuori dallo studio il mio vecchio Wurlitzer, perché ci garantisce il suono che fa parte proprio della nostra personalità. Quindi ti devo anche aiutare? Mi dovrai aiutare, dovrai venire con me. Intanto vediamo se riusciamo a liberarci per il 26 di luglio per andare a vedere Laura Mvula, e facciamo una cosa. Adesso, prima della pausa per l'informazione, sta per arrivare qui alle 16 puntualissima l'informazione di Radio 24 con il GR. Ascoltiamo Laura Mvula ancora una volta con la bellissima Green Garden. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Soundcheck. Il suono della musica. Have to say is music, tutto quello che vi dico riguarda la musica e la verità, soprattutto quando siamo in onda con il Soundcheck qui su Radio 24. E tornando a verificare un po' di concerti e di appuntamenti per i prossimi giorni, vorrei segnalare agli appassionati di jazz la data di domani, no, la data di questa sera al Festival Jazz di Forlì in Popoli, giusto? Sì, questa sera. Ecco, ci sono i miei amici Stefano Di Battista e Flavio Boltro, e poi Pat Metini, che è già sbarcato in Italia con il concerto di ieri a Udine, questa sera si trova a Tortona, poi il 16 a Fiesole, il 18 a Roma al Parco della Musica, 19 ad Avellino al Teatro Carlo Gesualdo, il 20 a Bari al Teatro Team. E sempre questa sera al Vittoria Jazz Festival in Sicilia c'è Rita Marcotulli, da non perdere la bravissima Rita, Vinicio Capossela, invece martedì 2017 al Ravenna Jazz Festival, e poi c'è una super band rock, ovvero i Pearl Jam, il 19 allo stadio di San Siro. Quali di questi concerti vorresti vedere? Pat Metheny ovviamente. Invece di farti ascoltare Pat Metheny, che abbiamo abbondantemente saccheggiato ascoltando quasi tutta la sua discografia in queste prime 155 puntate del nostro soundcheck, vorrei proporti i Take Six, che pure abbiamo ascoltato tantissimo. Però perché voglio parlare di Take Six? Perché saranno in Italia anche loro. Ecco, vabbè. E tu hai mai visto i Take Six dal vivo? Ancora no, purtroppo. Ma allora, ma come mai stai qui al soundcheck se non hai visto i Take Six dal vivo? Guarda che devi comprare il biglietto. Fai una cosa, compra due biglietti, quello di Stevie Wonder e quello dei Take Six a Umbria Jazz, così la tua paghetta mensile è andata completamente. Ma sono lo stesso giorno, quindi come faccio ad essere... Ma come lo stesso giorno? Sì. Ma allora c'è da fare una scelta di vita, una scelta importante. Di che giorno parliamo, che no, ho dimenticato? Il 20 luglio, domenica. Il 20 luglio. Allora, il 20 luglio gli appassionati di musica possono fare una scelta: Stevie Wonder a Lucca oppure i Take Six a Umbria Jazz. E credo che geograficamente gli italiani si divideranno, anche perché nello stesso giorno dei Take Six all'Arena di Santa Giuliana lì a Perugia ci sono altre due performance. Sì, ci saranno anche Al Jarreau e Mario Biondi. E Mario Biondi. Mario Biondi, tu l'hai visto dal vivo? No, ancora no. E pare sia molto forte il nostro Mario. Io non l'ho ancora visto dal vivo, prima o poi capiterà, perché purtroppo si sta sempre in giro, o stiamo qui a fare la radio o a fare i concerti, e quindi diventa difficile poter vedere tutto. Ma anche lo spettacolo di Mario Biondi merita, quindi c'è una scelta di vita: Stevie Wonder a Lucca oppure Take Six, Al Jarreau e Mario Biondi all'Arena di Santa Giuliana lì a Perugia il 20 di luglio. Quanto costa il bigliettone? Meno di Stevie Wonder. Che significa meno di Stevie Wonder? Non arriviamo ai 150 euro, però? Andiamo dai 20 ai 55 euro. È comodo, quindi tu avrai già fatto il calcolo. Vai con la fidanzata o ci vai solitario? Forse ci andrò solitario, perché la mia ragazza non è proprio appassionatissima di jazz. Un po' si... ma guarda che non puoi stare con una ragazza così, non è appassionata di jazz. A parte che questo, siamo in un versante che è a cavallo fra il jazz, l'R&B e la soul music, quindi probabilmente, ma poi la devi istruire, amico mio, quindi lei non segue soundcheck. Sì, lo segue, però io ci provo a istruirla, ma... Non mi dire che lo segue solo perché ogni tanto ci sei tu. No, lo segue anche perché comunque ti conosce, quindi... Ah, grazie. Come si chiama la tua fidanzata? Ricordamelo. Serena. Serena, per favore accompagna Francesco a vedere i Take Six oppure Stevie Wonder, perché non puoi mandarlo da solo, anche perché di solito ai concerti dei Take Six e di Stevie Wonder i calabresi si fidanzano con altre. Ecco, l'ho detto. Eccoli qui allora i Take Six con Sing a Song dal repertorio degli Earth, Wind and Fire, per una produzione di Marcus Miller al soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. E c'è una band chiamata Brother Strut, che abbiamo presentato qualche settimana fa qui alla prova del suono di Radio 24, che sta dominando la classifica dell'R&B su iTunes Italia, e la cosa naturalmente ci fa molto piacere. E questi signori hanno una missione, perlomeno la missione del leader dei Brother Strut qual è? È quella di aggraziare le orecchie di chi ascolta, diciamo. Di chi ascolta, ma certo, anche le mie? No, le tue no, diciamo, sono già abbastanza graziate. Ti ringrazio per il complimento, però qual è l'obiettivo vero di questi ragazzi? Allora, l'obiettivo del leader, che sarebbe Stevie Jones, il sassofonista, è quello di pulire, diciamo, tra virgolette, le orecchie dei giovani che si sono formati con tutti questi talent show e comunque con la musica in TV, che bene o male è sempre tutta simile, tutta uguale. Eh sì, i ragazzi che si avvicinano alla musica soltanto per quello che passa passa il convento e quindi la televisione, ma anche la radio, perché la radio molto spesso fa grandi danni. Eh sì, soprattutto le radio mainstream qui in Italia, diciamo che sono un po' tutte omologate su omologate con lo stereotipo di suonare sempre i brani presenti nelle classifiche, però insomma ci sono dei programmi che cercano di compensare questa mancanza. Bisognerebbe dare spazio a altri suoni, a altri generi, ed è quello che facciamo noi. Infatti io lo voglio precisare, non suoniamo certe cose perché le suonano gli altri. Certo, non avrebbe senso fare un programma come quello degli altri, no? Esatto, è proprio quello che noi vogliamo fare, per distinguerci in qualche modo nel bene e nel male. Ma facciamo comunque buona musica, mi pare, no? Quello devi dire alla tua fidanzata. Non so che cosa ascolti a casa, come hai detto che si chiama? Serena. Serena, perdonami, la mia memoria è fatta solo per la musica, però cara Serena, io ti consiglio di ascoltare Brother Strut, perché così forse potrai apprezzare un po' il tipico suono funk, anche se questo poi non è un funk vigoroso come quello che ascoltiamo noi, Francesco. No, infatti un pochettino più, tra virgolette, forse anche un po' più commerciale, no? Un po' più commerciale, e secondo me per questo motivo Brother Strut domina la classifica dell'R&B. Eccolo qui con Vinyl is my bubble, il vinile è la mia Bibbia, e anche per me, perché sta tornando il vinile e ho ricominciato anch'io ad acquistare. Sono guai, Dolori. Io sono pronto ad andare a Glasgow a fare un po' di rifornimento di vinili in di quei record store indipendenti. Allora, poi ti faccio qualche segnalazione, anche una segnalazione che arriva da alcuni DJ. Quando parti? Fra poco, fra una settimana. Bene. C'è un'altra band che sta per arrivare in Italia, sempre a Umbria Jazz, e quest'anno Umbria Jazz propone delle cose molto interessanti, oltre ai grandi classici del jazz, anche se i grandi maestri poi sono rimasti veramente pochi, si possono contare sulle due mani, forse anche meno, però arrivano finalmente gli Snarky Puppy. Ne abbiamo parlato, è una delle band funk più interessanti degli ultimi anni, band guidata dal bassista Michael League, che ha radunato alcuni fra i migliori talenti della nuova generazione, una band che propone dal vivo un sound irresistibile, e credo che sarà difficile seguire il concerto di Snarky Puppy al Teatro Morlacchi. Ecco, questa credo che sia una piccola pecca da parte del direttore artistico Carlo Pagnotta, che forse avrebbe potuto spostare Snarky Puppy in una location più adeguata al tipo di impatto sonoro e di groove soprattutto. Vabbè, si può sempre salire sulle poltrone a ballare. Del Teatro Morlacchi, ma ci sei mai stato al Teatro Morlacchi? No, però vabbè. E allora ci puoi andare, prova a salire sulla poltrona del Teatro Morlacchi, arriva proprio Carlo Pagnotta in persona che ti tira giù a schiaffoni. Allora, Snarky Puppy arrivano anche loro a Umbria Jazz, in che giorno saranno presenti al Teatro Morlacchi? Il 14 luglio. A che ora? Intorno a mezzanotte. E a mezzanotte probabilmente ci saremo anche noi, carichi, pieni di energia per ascoltare una delle migliori band del momento, Snarky Puppy, che qui gustiamo con Lala Hathaway in un brano scritto da David Foster e Brenda Russell intitolato Something, e poi facciamo una bella pausa per ritrovarci sempre qui su Radio 24 dopo l'informazione delle 19, quindi saranno più o meno le 19:15. Saremo puntuali? Puntualissimi come puntualissimi come sempre. A più tardi. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesforo. Puntualissimi, siamo tornati per il soundcheck, la seconda parte della prova del suono. Buonasera da Gigi Telesforo, buonasera anche a Francesco Tromba che ha ancora i baffetti sporchi di olio, di unto, perché ti viene l'appetito a quest'ora e quindi è inutile che fai finta di niente, ma ti ho visto che stavi sgranocchiando in mezzo alla mia discografia qualcosa di tipicamente calabrese, lo sento proprio dall'olezzo tipico che arriva dal tuo zainetto. Sì, è una variazione sul tema, diciamo. Ecco, quindi per stare proprio in tema con il jazz che presentiamo in questa seconda parte, come sempre per gli appassionati del genere, cioè una variazione sul tema di chi e di cosa? È sempre mia nonna, diciamo, l'autrice. Nonna Tromba. Sì, proprio lei. È una parmigiana di pesce spada. Ecco, Nonna Tromba ha proprio il concept quello giusto per un musicista di jazz, conoscere la melodia, interpretarla e poi applicare la variazione su tema fino ad arrivare all'improvvisazione. Quindi se questa è la variazione su tema, una parmigiana di pesce spada, possiamo immaginare con l'improvvisazione vera e propria che cosa potrebbe combinare. Sì, diciamo che ogni tanto c'è il rischio che esageri con il groove, forse. Ecco, con il groove. Ottimo. Allora, dal groove invece passiamo proprio al suono tipico del jazz e vogliamo fare un salto nel 1900, di che anno è? 1955, la registrazione di questo album che torna alla luce in versione CD, quindi una rimasterizzazione per un genio della musica, un genio del jazz e un genio dell'armonica a bocca. Abbiamo parlato dell'armonica a bocca nella prima parte quando abbiamo introdotto il concerto di Stevie Wonder che arriverà a Lucca, quando, ti ricordi la data? Il 20 luglio. Il 20 di luglio, ma qui parliamo di un grandissimo maestro. Questo signore è forse uno dei musicisti più amati da Quincy Jones, che lo ha sempre richiesto per le sue performance discografiche, soprattutto nelle colonne sonore che Quincy Jones ha realizzato, e vi sto parlando del formidabile Toots Tielemans, chitarrista, armonicista a bocca, ma anche eccellente fischiatore, lo sapevi? Sì, lo sapevo, lo conosco abbastanza bene. Il fischio di Toots Tielemans è stato utilizzato molte volte per il cinema e oggi torna alla luce questo album, come dicevo, del 55. A dire la verità ci sono diverse tracce tratte da due periodi diversi, 1955 fino al 58, per un album intitolato The Soul of Toots, l'anima di Toots Tielemans, che qui è accompagnato egregiamente da Ray Bryant al pianoforte, Tommy Bryant al contrabbasso e Oliver Jackson alla batteria. Il brano che ho scelto per presentarvi Toots Tielemans, che c'è, Francesco? Sai cosa vuol dire Toots? Perché si chiama Toots? Perché? Perché è il nome proprio di un'armonica, di un tipo di armonica della Owner. Ah, vedi, ma allora sei veramente preparato, sei promosso, ti metto un bel voto oggi, Francesco, grazie, hai ragione, bravo, non ci avevo mai pensato. Toots Tielemans, allora, il brano, un classico di Benny Goodman del periodo swing, si intitola Don't Be That Way, qui al Soundcheck di Radio 24. Il talento e la passione di Toots Tielemans al soundcheck con Don't Be That Way di Benny Goodman, da questa nuova ristampa, un master digitale, troverete l'album su CD intitolato The Soul of Toots. E da Toots Tielemans torniamo ad ascoltare il suono che ha creato il sassofonista della nuova generazione, ormai a 50 anni suonati e una bella preparazione, Jacques Schwarzbart, che ha militato anche nelle band di Roy Hargrove e di Erykah Badu, tanto per non farsi farsi mancare nulla, ha suonato moltissimo con i cubani e, avendo girato l'Africa con i suoi genitori, abili scrittori, giusto Francesco? Sì, entrambi scrittori. Ecco, scrittori, il signor Jacques Schwarzbart si è formato ritmicamente con i ritmi fondamentali di Madre Africa, ed è per questo che l'album credo sia molto ben riuscito, perché c'è la magia dell'isola di Haiti, avendo coinvolto cantanti proprio che arrivano da Haiti, alcuni musicisti francesi, altri africani, musicisti americani, c'è un po' di tutto in questo album intitolato Jazz Racine Haiti. Io credo che sia uno degli album più belli e più interessanti di quest'anno, da non perdere assolutamente, soprattutto questa performance in studio con la bravissima vocalist Stephanie McKee. Il brano si intitola Contre Dance, e credo che gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando utilizzando internet lì a New York fanno ancora in tempo a recarsi allo Shapeshifter Lab lì a Brooklyn, perché fra pochissimo sta per iniziare il concerto di Jacques Schwarzbart lì a New York. Ci vai? No, purtroppo sono qui, quindi... No, però sai che potremmo fare? Vedere se il locale ha una webcam attivata, perché molto spesso nei club americani ci sono le webcam attivate e uno da casa può godersi gli spettacoli e soprattutto le jam session tipiche di New York. Magari, sarebbe un gran bel vedere. Diciamo. Allora, facciamo partire il brano e andiamo a verificare se c'è attivata la webcam. Jacques Schwarzbart e Stephanie McKay in Contradance qui al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Well, all I ever did was wonder how your arms might be, and now it's all happening to I was born. Wandering star, a wandering, wandering star. Che bravo Georgie Fame! Noi in Italia lo abbiamo conosciuto all'inizio degli anni 60, perché arrivò questo successo dall'Inghilterra intitolato Winchester Cathedral. Ricordi questo brano di Georgie Fame? No, forse sono un po' troppo giovane. Quello dici così, sono un po' troppo giovane. Sì, appartieni proprio a un'altra generazione. Io invece ricordo benissimo Winchester Cathedral. Non solo, ma ho avuto l'onore di calcare il palcoscenico affiancando Georgie Fame, che è un eccellente organista, un bravo pianista e soprattutto un conoscitore di jazz e di testi di jazz impressionante. Ricorda tutto, melodie, assoli, un musicista molto preparato che qui al Soundcheck abbiamo apprezzato in questo classico di George Gershwin intitolato But Not For Me, e ad affiancarlo in questa registrazione del 2000 per la Go Jazz Records di Ben Sidran c'erano il bravissimo sassofonista tenore Bob Malak, David Hazeltine al pianoforte, Peter Washington al contrabbasso e Louis Hayes alla batteria. Questo Georgie Fame, non dimenticate questo nome, gira in lungo e largo, soprattutto in Oriente, molto apprezzato ad Hong Kong, Cina, Giappone, in Italia però non lo vediamo mai. Speriamo che possa venire prestissimo, anche perché Georgie Fame inizia a avere una certa età, ha superato i 70. Sì, inizia magari a spostarsi anche un po' di meno. Ma credo proprio di no, perché perché io lo ricordo, ha una bella tempra e una grandissima energia. E allora, da Georgie Fame e quindi dal sassofonista tenore Bob Malak, altro meraviglioso musicista, a un altro sassofonista, questa volta italiano. È stato nostro ospite il bravissimo Max Ionata, che in questi giorni si trova in Giappone, perché è in Giappone per presentare insieme al pianista Dado Moroni questa operazione discografica creata da Giando Music, con la quale rendono tributo a Duke Ellington. Ma c'è anche una novità: io so che Max Ionata e Dado Moroni hanno da poco finito di registrare un tributo a Stevie Wonder. Vedi in questa puntata, in questa giornata, come torna Stevie Wonder. Però lì in Giappone, proprio la settimana scorsa, è stato pubblicato da Albo Red Jazz, etichetta indipendente ma molto interessante lì in Giappone, questo album intitolato Inspiration Live, un concerto dal vivo con Max Ionata al tenore, Luca Mannuzza al pianoforte e il nostro amico fratello Joseph Bassi al contrabbasso e il bravissimo Nicola Angelucci alla batteria. Questa è una registrazione fatta in un club italiano. Max Ionata in evidenza in questo brano scritto da Luca Mannuzza, intitolato ESC. Non so che cosa significhi, me l'ha detto anche Luca Mannuzza un po' di tempo fa, ma non lo ricordo. La memoria fa questi scherzi a quelli della mia generazione, caro Francesco Tromba. In evidenza c'è Max Ionata che utilizza anche l'effettistica con il tenore, quindi alcuni pedalini, harmonizer, wah. Hai mai sentito il sassofono tenore filtrato da questi effetti? Sì, conosco, ho sentito più volte Francesco Bearzatti che lo usa molto spesso. È vero, anche Francesco Bearzatti, altro eccellente sassofonista italiano, ma queste esperienze proposte, il primo credo sia stato Eddie Harris con il tenore, già alla fine degli anni 60, primi anni 70, poi lo ha fatto Michael Brecker, ultimamente Joshua Redman, e adesso ci sono anche i nostri bravissimi italiani. Max Ionata Quartet dal vivo, Inspiration Live, album nuovissimo, per ora pubblicato solo in Giappone, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Attenti, avranno senz'altro riconosciuto la voce di Sting in questo classico del jazz intitolato What Are You Doing The Rest Of Your Life, brano che io ho ascoltato per la prima volta nell'interpretazione pianistica di Bill Evans, e qui Sting è ospite del suo trombettista. Sì, perché Chris Body ormai da diversi anni fa parte dell'organico di Sting, e Sting, per ricambiare il favore, ha partecipato a questa pubblicazione discografica di questo bravo trombettista della nuova generazione, che ha capito anche qual è il segreto per vendere i dischi. Qual è? Forse rivolgersi a un determinato pubblico. Bravo. Qual è il pubblico di riferimento di Chris Botti? Non lo so. Le ragazze, Francesco. Quando tu farai il cantante finalmente capirai che con questo cognome devi anche suonarla la tromba, non puoi solo chiamarti tromba, la devi anche suonare, allora capirai che il pubblico di riferimento per vendere i dischi è quello: o i ragazzini o le ragazze. Infatti ho iniziato da poco a suonare la tromba. Questo per ammaliare i ragazzini o le ragazze? Le ragazze, ma quindi hai iniziato con la tromba, finalmente, bravo. E a che punto sei? Sto iniziando a capire come si fanno le prime note. Ma questo dove? Nel condominio? Sì, devo studiare un po' a casa. Quindi sei ancora nella fase dell'impostazione, devi cercare il labbro proprio e devi spernacchiare, quello fai, fai dei piccoli pernacchietti per ricavare poi un suono rotondo e corposo. Sì, infatti faccio un sacco di rumore. Ecco, un sacco di rumori, figurati nel condominio se la saranno presa. Ma in realtà non tantissimo, anzi un giorno mi sento chiamare dal palazzo di fronte, ho pensato adesso me ne diranno di tutti i colori, e invece il mio vicino mi ha dato dei consigli su come... Cioè hai trovato un trombettista nel condominio? Sì, di fronte, nell'altro palazzo, pensate. Bene, allora direi di chiudere questo appuntamento con un altro trombettista, e questo è uno dei miei preferiti in assoluto, perché si chiama Nicholas Payton, viene da New Orleans, suona benissimo anche il pianoforte, la tromba, sulla tromba è un campione del mondo, e qui ci fa ascoltare anche tutta la sua passione per Louis Armstrong, che considera una leggenda, il re del jazz, in questa interpretazione di un classico di Louis Armstrong come Hello Dolly, per una versione rivisitata, completamente stravolta, con la visione contemporanea tipica di Nicholas Payton. Passiamo a questo brano intitolato Hello Dolly, perché Hello Dolly e quindi Louis Armstrong saranno il tema portante di un bellissimo festival che sta per iniziare ad Ascona, bellissima località in Svizzera, lì sul lago, con il festival Ascona Jazz Festival. Sì, inizierà il 20, dal 20 al 28. Che bello, lo sai che ci sarò anch'io all'Ascona Jazz Festival, torno quest'anno dopo alcune stagioni. So anche che ci sarà un ospite d'eccezione, no? Sì, e questa è una cosa formidabile, perché dopo 30 anni di collaborazioni, dopo aver militato per 20 anni nella sua orchestra italiana, questa volta scatta la vendetta. No, sto scherzando, però con i miei musicisti, con Domenico Sanna, Joseph Bassi, Roberto Pistolesi e anche Fabio Zeppetella, a fare... Da special guest ci sarà proprio Renzo Arbore. Per me è un onore, un grandissimo piacere accompagnare con la mia band Renzo in una serie di brani tipicamente swing per sviscerare tutta la nostra passione per il jazz lì ad Ascona Jazz Festival. Se fosse un po' più vicino magari verrei anche a sentirvi. Ma te lo pago io il biglietto, al massimo ti butto dietro nel van insieme agli strumenti, tanto tu sei calabrese, sei abituato alla sofferenza, no? Sì, vorrei anche conoscere Renzo Arbore, che è molto simpatico. Certo, te lo presenterò Renzo Arbore, non ti preoccupare. Allora chiudiamo il soundcheck di questa settimana con Nicholas Payton, Hello Dolly. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire dalle 19 sabato, poi torniamo la domenica col doppio appuntamento 15:30 e 19. Comunque credo di aver parlato abbastanza, ascoltiamo l'ottima musica di Nicholas Payton. A tutti voi buona giornata e naturalmente buona settimana. E buona musica, Francesco Tromba. Buona musica a tutti.